in primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, questa volta per la rassegna stampa italiana, e cominciamo dal Sole 24 Ore oggi, che ha un titolo di apertura dedicato agli scenari macroeconomici che si sono configurati ieri, con il dato, quello più importante, sugli occupati negli Stati Uniti, un vero e proprio boom, perché in novembre ci sono stati 211.000 nuovi posti di lavoro. A questo punto sì, diventa più sicuro il famoso rialzo dei tassi che verrà deciso il 16 dicembre. Quindi il titolo boom di occupati negli USA, arriva alla stretta della Fed, la Federal Reserve. Poi un accenno alle mosse della BCE, della Banca Centrale Europea, il secondo giorno in cui Draghi è il governatore della Banca Centrale Europea, un po' sotto i riflettori per le decisioni nuove sulla politica monetaria, quindi sul quantitative easing, sono pronti 680 miliardi di liquidità in più. Vi segnalo il commento di Alessandro Merli, che circa due settimane fa ha firmato insieme al direttore Roberto Napoletano una lunghissima intervista al presidente della BCE Draghi. Il titolo è Alla ricerca del dialogo. C'è naturalmente un accenno ai dati che sono stati, li avete sentiti anche nei GR di ieri e anche di stamattina, i dati dell'Istat sul PIL. La crescita dovrebbe essere dello 0,7, c'è questo balletto appunto dello 0, comunque di crescita sempre si tratta. Questo 0,7, che è stato leggermente abbassato, è dovuto al rallentamento del quarto trimestre, che dovrebbe crescere solo dello 0,2%, ma il quarto trimestre del 2015 è stato l'anno più difficile per tutti i mercati, per tutti i paesi, per via anche di tutti gli scossoni, non soltanto valutari, e per esempio sulle materie prime. Sul Sole 24 Ore trovate anche un approfondimento sull'ennesimo calo del prezzo del petrolio di ieri, ma naturalmente anche tutte le incognite geopolitiche. Dalla prima pagina del Corriere della Sera invece il titolo qui veramente i titoli da questo in poi sono praticamente uguali. Il titolo del Corriere è USA, il marchio dell'ISIS sulla strage, perché si configura questa ipotesi per la strage di San Bernardino in California. Vi segnalo in questo caso il commento di Beppe Severgnini, perché una delle tante conseguenze delle stragi, questa è quella degli Stati Uniti, ma poi naturalmente pensiamo a quella di Parigi del 13 novembre, è che è in preparazione una stretta sui controlli. E allora Beppe Severgnini si concentra su questi nuovi controlli, che saranno sia, sappiamo, per contrastare il cyberterrorismo, quindi saranno controlli su tutto quello che noi facciamo in rete, ma anche fisici. Probabilmente arriverà un'ulteriore stretta sui controlli in aeroporto. Allora il commento: sacrifici possibili. La fotonotizia è dedicata all'imminente prima della scala, che sarà Sant'Ambrogio, è sempre a Sant'Ambrogio, che quindi è lunedì il 7 di dicembre, il santo patrono di Milano, e appunto il giorno tradizionalmente dedicato alla prima della scala. E quest'anno è stata scelta un'opera che viene definita minore di Verdi, ma tutti ci stanno cercando di spiegarci che non si tratta di opera minore, la Giovanna d'Arco. Pereira, il sovrintendente alla Scala, spiega per esempio al Corriere che il suo sogno è che alla Scala vadano, per la prima e per della Giovanna d'Arco e per tutte le sue repliche, anche le famiglie. E poi vi segnalo, visto che è in corso, avete sentito proprio prima della rassegna stampa uno dei molti approfondimenti da Parigi, in corso a Parigi questo grande vertice sul clima, e vi segnalo un intervento di Carlo Rovelli, che è un fisico ed è anche un grandissimo divulgatore scientifico. Il suo ultimo libro di divulgazione scientifica è stato un po' a sorpresa, uno dei best seller del 2015. Carlo Rovelli dice la sua su questo vertice, e come vedremo sta scatenando molte polemiche anche all'interno della comunità scientifica, quegli schettino del clima che reclamano le prove dei rischi, perché sapete che si sta cercando di raggiungere un accordo per non superare l'aumento dei 2 gradi centigradi medi di tutto il pianeta rispetto all'era preindustriale. Alcuni scienziati sostengono che non sarebbe poi così grave se questa soglia venisse superata. La Repubblica, vi dicevo, tutti i giornali a parte del Sole 24 Ore hanno dei titoli veramente fatti un po' con lo stampino su queste notizie che vengono dagli Stati Uniti. Quindi titolo della Repubblica, l'ISIS Islamic State, quindi lo Stato Islamico esulta, colpiremo ancora. Quindi di nuovo anche qui questa ipotesi che l'attentato di San Bernardino in California sia comunque legato a seguaci della Jihad e dell'ISIS. In copertina sulla Repubblica però anche un grande spazio alla quella che viene definita l'amarezza del capo dello Stato Sergio Mattarella per questo, sapete, questo stallo che c'è per le nomine dei nuovi giudici della Corte Costituzionale. Il Quirinale: basta veti, vulnus grave, ora serve uno scatto di reni delle Camere. E forse avete, chi ha seguito questa vicenda sa che il Presidente del Senato Grasso e il Presidente della Camera Laura Boldrini hanno anche detto che si potrebbe andare avanti a votare a oltranza, proprio anche fino a poche ore prima di Natale, per riuscire a sbloccare queste nomine che devono essere fatte dal Parlamento. La Stampa: il marchio dell'ISIS sulla strage USA, vi dicevo appunto titoli sempre molto simili a quelli di quasi tutti i giornali. Qui la fotonotizia però è dedicata a Gregorio Paltrinieri, il nostro nuotatore di 21 anni che ha battuto il record dei 1500 stile libero agli europei di nuoto che sono in corso in Israele. Il record di Greg, questo è il suo soprannome, non so neppure come ho fatto, ha detto molto candidamente questo giovane nuotatore. Il Messaggero: marchio ISIS sulla strage in USA, e vi dicevo le misure antiterrorismo che anche appunto Beppe Severgnini commenta sul Corriere della Sera. L'Unione Europea schederà tutti i passeggeri aerei, rimarremo per così dire schedati per 5 anni dal momento in cui abbiamo fatto un volo. Serve più dialogo tra le varie intelligence, anche di questo si parla molto, è un tema che è stato rilanciato dalle stragi di Parigi, perché appunto spesso si scopre che non c'è comunicazione tra le intelligence dei vari paesi, e questo naturalmente rallenta le indagini su individui sospetti o addirittura magari criminali già accertati, sappiamo come quelli ancora i terroristi in fuga dopo l'attentato del 13 novembre a Parigi. Un accenno sul Messaggero, naturalmente trovate approfondimenti su questo anche sulla Sole 24 Ore, su quella norma che è stata inserita nella legge di stabilità e con un fondo salva risparmi per tutte le persone che sono rimaste, che hanno perso i loro risparmi nei crack delle banche. Il Giornale ha un titolo molto duro su questo, un po' legato anche ai dati resi noti ieri dal PIL. Il titolo è: le bugie di Renzi sui nostri soldi, l'Istat smentisce le stime del Premier e di Padoan, il PIL resta inchiodato a un misero più 0,7. E poi vi segnalo un'intervista, dicevo le polemiche sul vertice, sul riscaldamento globale innescate dal grande vertice che è in corso a Parigi, un vertice lunghissimo che durerà fino al 15 di dicembre. In questo caso vi segnalo l'intervista di Nicola Porro, vice direttore del Giornale, ad Antonino Zichichi, che è uno scienziato italiano sicuramente autorevole, ha lavorato al CERN di Ginevra, è stato presidente dell'Istituto di Fisica Italiano, è un grande divulgatore, però anche negli anni ha suscitato molto polemiche per alcune sue posizioni sia sul darwinismo che sul creazionismo. Ebbene, il titolo dell'intervista, che poi trovate a pagina 4, è: Zichichi boccia l'eco catastrofismo è scientificamente inattendibile. Secondo Zichichi, infatti, non è davvero calcolabile o non è dimostrato quanto possono essere attendibili queste previsioni, non è calcolabile l'andamento del clima da qui a 10 anni. Dice Zichichi, polemico: sono inattendibili persino le previsioni a 15 giorni, figuriamoci quelle fatte sul lungo periodo. E naturalmente ci si augurerebbe, almeno io me lo augurerei, che su fatti scientifici si potesse, almeno gli scienziati potessero mettersi d'accordo per poi dare una versione a noi che scienziati non siamo, sui quali poi farci una nostra opinione, decidere come comportarci. E quando invece gli scienziati anche di così alto livello si spaccano su questioni che in realtà ci riguardano tutti, si resta molto perplessi e disorientati. La prima pagina del Fatto Quotidiano: il PIL salvato dai criminali, perché questo titolo molto forte, perché se si guarda bene tra le pieghe dell'economia italiana si scopre che evasione, lavoro nero, droga e prostituzione, cioè tutto il nero appunto, il crimine, l'economia criminale, è in crescita nel 2013. Il manifesto, si salvi chi può, si salva chi può, il titolo è riferito al rapporto del Censis che trovate un po' su tutti i giornali, che ha fotografato, citiamo letteralmente, una società sconnessa, la nostra, in letargo. Dal manifesto vi segnalo però un articolo, come ho notato anche in passato, mi è capitato di notare in passato, il manifesto continua a seguire le vicende greche, in questo caso con un'intervista a Nikos Pappas, che è ministro alla presidenza e braccio destro di Tsipras, che dice torna sul tema dei tagli e torna sul tema della necessità, secondo lui, di ristrutturare il debito greco. Come vediamo, quindi, dopo tutto il parlare che se n'è fatto, soprattutto durante l'estate, in realtà la questione non è chiusa per niente. Ci fermiamo però un attimo per la pausa sul traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Dalle prime pagine dei giornali ci spostiamo all'interno e vi segnalo, tra l'altro, col Sole 24 Ore, come ogni sabato, Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, e la copertina non poteva che essere dedicata alle scelte da fare in vista, appunto, di questo cambio dei tassi. Abbiamo visto che il 16 dicembre tutti prevedono un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, e quindi gli scenari dei mercati, il vedmeil per i risparmiatori dopo le mosse della BCE di Draghi sul quantitative easing in attesa del possibile rialzo della prossima riunione della Fed. Dalle pagine interne vi segnalo anche, dalla copertina di Imprese e Territorio, un approfondimento sull'automotive, sul settore dell'automotive. Abbiamo visto martedì scorso i dati e questa fortissima crescita del settore automobilistico in Italia, che sta proprio trainando in questo momento la manifattura, il settore produttivo italiano, il settore che va meglio, quello dell'automotive. E allora, in questo dibattito che si è svolto a Bologna con i principali attori della filiera, la conclusione è appunto che in questo momento è l'auto il motore della ripresa. Molte le proposte, per esempio un credito d'imposta per incentivare la ricerca nell'automotive e rimetterla al centro del settore produttivo anche in Italia. Poi vi segnalo un'altra buona notizia, secondo me, che viene, ce la racconta Stefano Salis, sono i dati resi noti in occasione della Fiera Nazionale della Piccola Editoria a Roma. Nel 2015 il settore, appunto, dei libri vede positivo, e c'è stato anche un intervento di Sergio Mattarella che ha spiegato come comunque i libri siano anche i libri, siano un mezzo per garantire maggiore libertà, e il ministro della Cultura Franceschini, che ancora una volta ha spiegato che uno degli obiettivi del suo ministero, appunto, è aumentare i lettori, che sappiamo in Italia sono meno che in altri paesi europei. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista di Stefano Montefiori, che è il corrispondente del Corriere da Parigi, con Ségolène Royal, che conosciamo bene, insomma è una dei più importanti politici francesi, ed è in questo momento è il ministro dell'ambiente del governo Hollande, e dice, il titolo che Stefano Montefiori ha scelto è: Obama mi ha detto ho buoni sondaggi, agirò deciso sul clima. E secondo me in questo titolo c'è molto di come agiscono oggi i politici, perché che Obama dica agirò deciso sul clima perché i sondaggi sono positivi, forse dovrebbe farlo, anche perché sappiamo che non potrà correre per un terzo mandato, quindi non ha di fatto nulla da perdere, forse dovrebbe farlo se è veramente convinto che sia la soluzione migliore per il suo paese e per il mondo. Comunque, se anche i sondaggi gli danno ragione, lui dice che agirà deciso sul clima, aspettiamo, perché in molti credono che poi l'accordo finale di questo vertice sarà un po' un accordo al ribasso. Comunque vedremo, non voglio essere negativa, spero anzi che alla fine sia un ottimo accordo quello che uscirà da questo vertice di Parigi. Dicevamo, abbiamo visto sulla giornale l'intervista a Antonino Zichichi, che è polemico con le previsioni troppo catastrofiste. C'è altri fisici, questa volta la Società Italiana di Fisica, quindi anche qui un autorevole consesso di scienziati, che dice il ruolo dell'uomo non è provato nel riscaldamento globale, e l'accusa di questi scienziati è che si mescolano scienza e politica, ma c'è già anche chi ha replicato: questa è una posizione irresponsabile. E poi vi segnalo dalla Repubblica Emanuela Audisio, che forse molti lettori conoscono per i suoi reportage sportivi, perché è una delle più importanti, delle più anche delle migliori firme del giornalismo giornalismo sportivo italiano, però è a Miami in questi giorni e racconta Art Basel, Miami Art Basel, che è un po' la trasferta a Miami di questa grande fiera di arte moderna e contemporanea che è nata appunto a Basilea. E qui tra l'altro a Miami, che è una città in grandissimo fermento, alcuni dicono, la definiscono la nuova New York, quindi in fermento anche dal punto di vista artistico, Emanuela Audisio ci racconta le star a Miami in fila per fare shopping naturalmente di arte e non proprio di arte affordable, come si dice in americano, cioè abbordabile, con prezzi abbordabili, ma anche con, appunto, c'è per esempio la foto di una grande opera di Alighiero Boetti, e parliamo di opere da decine di milioni di euro. Dalla Stampa invece vi segnalo un bel reportage di Leonardo Martinelli dalla Bonne Bière, che è stato il primo bar a essere attaccato dai terroristi il 13 novembre, ha riaperto, quindi a distanza di 2 settimane, riapre il primo dei bar colpiti dai jihadisti. Noi siamo più forti dei terroristi, e il proprietario e chi ci lavora ha detto appunto deve tornare tutto esattamente come prima. Vi segnalo invece dal Messaggero un'intervista a Evelina Cristillin, che è la nuova presidente dell'ENIT, l'Ente Nazionale per il Turismo. Una storia travagliatissima quella di questo ente, in un paese in particolare che stona ancora di più, in un paese come il nostro che si ama autodefinire sempre appunto un Eldorado per i turisti, diciamo sempre che la cultura, il turismo è il nostro petrolio. Ecco, l'ENIT per esempio è stato più volte commissariato, ha fatto numerosissimi progetti fallimentari, non riesce veramente a avere il ruolo, non è riuscito negli anni scorsi a avere il ruolo di promotore vero del turismo in Italia. E il titolo dell'intervista di Roberto Amoruso a Evelina Cristillin, che lo ricordiamo in passato ha avuto questi ruoli di manager tra pubblico e privato anche con grande successo, per esempio le Olimpiadi di Torino, il titolo dell'intervista è: così la svolta sul turismo, nuova regia con le regioni, ora l'Italia farà promozione, sul tavolo ci sono 10 milioni di euro. A proposito invece di disastri un po' italiani, questa volta prendo l'articolo dal Fatto Quotidiano. Ieri, sapete, c'è stata una giornata veramente nera a Roma, un po' per uno sciopero e anche perché è arrivata la notizia che la metro C resterà incompiuta perché chi sta gestendo i lavori non è stato pagato. E Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano approfondisce in particolare questa vicenda della metro C, incompiuta metro C, accuse di Cantone, Raffaele Cantone, il commissario e il magistrato antimafia che in questo momento è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le sue accuse cadute nel vuoto e questa è la conseguenza. Per sorridere, un articolo di Selvaggia Lucarelli, sempre sul Fatto Quotidiano, che parte dall'ennesima polemica su quanto le scelte della moda, dei grandi marchi della moda, delle catene della moda, in fatto di taglie, per esempio, influenzino poi negativamente le scelte anche delle ragazze o dei ragazzi più giovani. Ecco, qui il caso, e non credo che Zara sarà molto contenta, ma il Selvaggia Lucarelli racconta un po' l'ultima polemica nata in Spagna da Zara su questi manichini utilizzati che sono veramente troppo magri, e Selvaggia, insomma, con la sua penna molto ironica tocca questo tema delle taglie che tutti noi abbiamo un po' riscontrato come sia ormai a volte una small, sembri forse la XXS extra extra small di qualche anno fa, e che quindi sia un po' difficile orientarsi in questo rebus delle taglie, ogni marchio ha le sue. Dal Messaggero, dall'Avvenire, credo sia l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, mi fa segno Peter Vescapè della regia, dall'Avvenire un approfondimento sulle elezioni in Venezuela: la svolta fa paura a Maduro, l'opposizione è avanti dopo 17 anni, i chavisti arrancano, cioè i seguaci del presidente Chavez scomparso, arrancano e possono perdere. E un'ultimissima segnalazione, perché l'ho trovata solo sull'Avvenire, parliamo tanto di terrorismo, sappiamo che a San Bernardino ci sono stati 14 morti, ieri in un night al Cairo, il Cairo in Egitto, una Molotov ha fatto 16 morti, anche in questo caso è terrorismo. Era l'ultima segnalazione, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Ho deciso di indire un giubileo straordinario.

Salutiamo il professor Gianfranco Rizzo, professore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Salerno. Buongiorno. Buongiorno, Dipartimento di Ingegneria Industriale, per essere preciso. Buongiorno. Era talmente buongiorno. Difficile che non si poteva non sbagliare. Lei è anche ideatore del iSolar Kit, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, un kit che si applica alle automobili normalissime per trasformarle in auto solari, ed è un progetto a cui lei sta lavorando da un po', un progetto che ha riscosso un certo successo, anzi con lei vogliamo fare il punto anche su questo, perché mi sa che il futuro non è più il diesel, o no? Certo, ma il diesel ci sarà, sicuramente adesso si tratterà di superare questo problema. Però certamente ci saranno altre soluzioni, alcune si stanno già facendo, come l'ibrido, sì, come l'elettrico e come la nostra. Il nostro progetto sta andando bene, tant'è vero che ha superato la fase 1 della misura SME Instrument per le piccole e medie aziende. Noi abbiamo formato una startup l'anno scorso, questa è una misura molto selettiva del programma europeo Horizon 2020. Stiamo candidandoci alla fase 2, tra l'altro con Solbian, che è un'azienda estremamente innovativa che fa pannelli solari flessibili, fondata da Giovanni Sottini. Perché voi praticamente, il vostro kit, adesso ce lo spiegherà meglio, consiste in questo: piccoli pannelli solari sparsi sull'automobile che catturano l'energia e poi viene trasformata energia motrice. Professore, questa questione delle emissioni, quello che colpisce, almeno a me che ha colpito in particolare, è che questi controlli vengono lasciati molto, diciamo, a chi produce queste automobili e le emissioni. Insomma, se io dico, faccio un paragone, a mia figlia: tieni il conto delle cioccolatine che hai mangiato durante il giorno, e la sera mi dici se ne hai mangiate più di due e ti faccio la multa. Non mi aspetto che sempre mi dica due. Esatto, la verità. Non è un po' strano questo? Sì, certamente. Diciamo che controllato e controllore dovrebbero essere diversi. In realtà non erano le stesse case a fare i controlli, ma erano delle, almeno in Europa, delle aziende, delle società che comunque compartecipate, pagate, adesso non conosco bene la struttura, ma comunque non era un ente governativo esterno come negli Stati Uniti. Ma poi, se posso dire, certamente la brutta figura ce l'ha fatta Volkswagen in primis, e poi bisogna vedere come stanno adesso le altre case, ma direi che ce l'hanno fatta anche i nostri centri di ricerca, perché magari qualcuno poteva vederlo prima. I nostri, dice, italiani o europei? In generale. Sicuramente l'Europa è arrivata, l'Europa, professore, è arrivata dopo l'America anche stavolta. Dico che ci vorrebbero finanziamenti indipendenti alle università e ai centri di ricerca, che non tutta, diciamo una buona parte dei finanziamenti non dovrebbero essere condizionati poi dall'industria. È importante lavorare insieme all'industria, ma è importante poter fare ricerche anche in maniera indipendente. Beh, è giusto dire che, insomma, le case automobilistiche dispongono, la Volkswagen in particolare, di così tanto capitale, di così tante risorse, che insomma è possibile che siamo sempre un passo in avanti rispetto allo Stato o a chi deve controllare, che magari queste risorse per fare i controlli non ce le ha. Ma onestamente non ci voleva tantissimo a fare questo tipo di trucchi. Secondo lei potevano essere facilmente scoperti? Sì. E come facevano in effetti a... lei è in grado di spiegarci? Io prima ho azzardato una spiegazione su questi software che gestiscono. Ma siccome io sono lo stupido dei due, ho molta difficoltà a comprendere. Cercherò di usare parole brevi e non usare i congiuntivi. Esatto, la ringrazio, che è sempre domenica mattina, professore, comunque. È anche ironico, vada. Va bene, allora, in pratica i test consistono in una sequenza predeterminata di velocità, diciamo di un profilo di velocità, cioè si dice la vettura deve stare tot secondi al minimo, poi deve accelerare nel giro di questi secondi, deve raggiungere i 20 km orari, poi deve stare 5. Ok, una sequenza standard. A questo punto il software può abbastanza facilmente riconoscerla. Riconoscerla e quindi adottare. Cioè riconoscere che in realtà si sta facendo un test. Stiamo facendo quindi modifica i dati delle emissioni. Certo. Allora, o modifica proprio le emissioni? no, non le emissioni sono misurate, adotta una strategia diversa. A questo punto la domanda è: ma perché questa strategia non viene adottata sempre, anche su strada, certo, esatto, perché questa strategia peggiora le prestazioni e la guidabilità e quindi rende meno appetibile il veicolo. Senta, ma lei cosa si aspetta dalle altre case automobilistiche? Perché normalmente c'è concorrenza, insomma, io la prima reazione è stata i tedeschi che ci fanno la morale, la seconda è lo faranno tutti, esatto. Ma questo bisogna vedere, perché quello che si fa è di come dire, impostare le strategie di controllo, ma questo non è segreto, questo è spiegato proprio nei libri, negli articoli ai quali ho lavorato anch'io, che quando si imposta l'obiettivo di creare le strategie di controllo, gli si imposta una strategia matematica per cui si dice: quando tu esegui il test devi minimizzare i consumi e devi rispettare le emissioni. Mm-hmm. Però dopodiché le emissioni sono basse anche se non esegue esattamente il test. Diverso è dire: tu lo devi fare soltanto quando stai facendo il test e poi fai un'altra cosa. Quindi quello che sicuramente fanno le altre case, o comunque quello che dice la teoria, è che si imposta, visto che diciamo il controllore ti impone di eseguire un certo test e di avere un certo risultato, tu imponi di ottenere quel risultato e di consumare il meno possibile su quel risultato a parità di prestazioni, e questo è, mi sembra, abbastanza ragionevole. Diverso appunto è quello di dire: fallo soltanto in quel momento. Sì, cioè, ma lei dice che è solo la Volkswagen, cioè secondo lei anche, cioè, le altre case automobilistiche invece hanno deciso che se quelli sono i limiti, rimangono quelli i limiti di emissione. Invece è difficile dirlo, perché poi non è che te lo vengono a raccontare. No, certo, sì. È che chiedevamo secondo lei come andavo, se secondo lei un po' tutti, visto che anche il titolo BMW è mezzo crollato nel momento in cui è stato detto forse anche loro fanno questa cosa. Ma vabbè, qua possono essere voci. Pare tra l'altro che dai test che avevano effettuato negli Stati Uniti il veicolo BMW ci stia abbastanza bene. Abbastanza, perché poi magari piccole cose c'erano, perché appunto poi si è visto che in realtà usavano su questi banchi a rulli, usavano dei pneumatici molto più gonfiati rispetto a, quindi cose un po' diverse. Ci sono una serie di elementi nei quali, diciamo, ma queste erano piccole differenze. Queste valutazioni possono entrare. Di sicuro professor Rizzo c'è, cioè, che la Suzuki ha annunciato di interrompere i rapporti per l'auto ibrida, credo, con proprio la Volkswagen. Evidentemente non vogliono rovinarsi l'immagine. Il futuro cos'è? La sua auto solare? Il kit per l'auto solare? Il futuro ci sarà, spero, anche quello, perché tra l'altro quello è un kit per l'auto ibrida solare, oltre ai pannelli solari si introducono dei motori elettrici integrati nelle ruote posteriori, per cui diventa una vettura 4x4. Anche per evitare la solita domanda che sennò l'avremmo fatto: ma quando piove, come si fa a usare la sua macchina? No, è una vettura ibrida, quindi che conserva il motore sulle ruote anteriori e le prestazioni e l'autonomia della vettura tradizionale. Quindi è il vantaggio dell'ibrido. L'ibrido non ha appunto questa palla al piede che ha l'elettrico, invece dell'autonomia. Professor Rizzo, in bocca al lupo per l'auto solare, per il kit, ma ci risentiremo senz'altro. Perché questo è lo scandalo del secolo, tra l'altro, per cui chiariamo anche se escono delle novità sulla questione Volkswagen, perché noi non siamo in grado di capire da soli, soprattutto la domenica, ci facciamo aiutare da lei, professore. Grazie, buona giornata. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani cosa? I giovani che? I giovani tutti. Tutti giovani, sempre giovani. Non mi dire che ci sei anche tu. Tra quelli lì della pubblicità, dell'aranciata e la Coca-Cola, quelli che gridano nei concerti, quelli che occupano la scuola, quelli che non trovano da lavorare, quelli che ancora paga papà, quelli che non c'è mai un cazzo da fare in questa cazzo di città. Vorrei Maurizio Battista, buongiorno. Presente. Eccolo, comico testimonial della campagna Non ti giocare il cervello. Prima di... Carlo o Alessio, non so chi è, la domanda come vorresti tornare? Certo, ma puoi rispondere anche se non ti facciamo la domanda comunque. No, non è che siamo a scuola. Se fai la domanda io ti rispondo scapolo. Vorrei tornare scapolo. Effetto nostalgia. Anche questa, canaglia, anche questa. Sì, canaglia. Ma più per la moglie o per la suocera, Maurizio? No, no, più per la moglie, perché la suocera è una conseguenza poi, capito? Non bene. Sei a casa, immaginiamo, in questo momento. Cioè, sta dormendo, sì, tua moglie? No, ma sta dalla madre, ecco perché mi parlo liberamente così. Ah, perfetto, perfetto. Magari se ti sta ascoltando. Pensi magari di essere al telefono, ma purtroppo sei, sei in radio. E quindi probabilmente ti sta ascoltando e ti aspetta un weekend terribile. Terribile. E non solo un weekend, una settimana, un mese, un anno terribile. Allora, mettiamo però agli atti la risposta di Maurizio Battista. Il suo effetto, momento nostalgia, è quando era scappa. Quando era scappa. Potresti vincere due biglietti, ti tocca andare pure alla mostra con tua moglie. Quindi forse è una punizione più che un premio. No, per la mostra no, ci faccio finta, ma tengo mia moglie, non ce la faccio per la mostra, chiedo scusa. Va bene, perfetto. Piuttosto che la mostra, Battista sceglie la moglie. Mi sembra. Tra due mostre, non so quale prende la meglio. Vabbè, potremmo chiuderla qua l'intervista. Potremmo già chiuderla qua volendo l'intervista. Se non fosse che testimonia della campagna della Regione Lazio contro la droga e l'alcol, non ti giocare il cervello. Vabbè. Perché hanno scelto te, Maurizio? Beh, perché sai, per dirlo in modo un po' più allegro, un po' più scanzonato, trattando un problema molto molto molto molto serio. Io finché non leggevo delle cose non mi sarei mai immaginato certe cose, e di conseguenza in un modo un po' allegro, un po' così, un po' più leggero, sensibilizziamo questi ragazzi per le scuole su questo problema, che loro sanno meglio di noi, secondo me, perché lo vivono ancora di più vedendo amici, su questo fatto della droga, dell'alcol, dell'abuso, capito, di queste cose qua. E io lo faccio un po', ecco, in modo un po' allegro, almeno provo, perché magari se i ragazzi li prendono un po' più sull'allegria, forse stanno un po' più attenti, morale della favola. Però qualcuno, infatti sei stato chiamato tu anche per dare un tono di leggerezza a questa cosa che è importante, anche in questo caso si fa ricorso a queste immagini anche un po' scioccanti, no? Perché adesso è un po' l'ultima moda sulle sigarette, ci sono le immagini, arriveranno sui pacchetti delle immagini terribili, ancora terribili. Più terribili quelle che ci sono adesso. È proprio inevitabile che si debba fare questo, secondo te, per sensibilizzare? Funziona solo il senso della vista? Funziona solo il terrorismo, così per dirla. Queste cose forti, non so se siano utilissime queste immagini forti dei malati, dei polmoni, eccetera, eccetera, però tutti i mezzi sono buoni perché sono motivi gravi. Io dico certe volte, senza che nessuno si offende, sì, se preoccupavo di che tipo di alimentazione, no? Che tipo di alimentazione, dove la fanno, chi la fa, chi è la gallina, chi era la madre della gallina, poi, poi sostanzialmente fumiamo. Fumano, sì. Io non ho mai fumato in vita mia, sono messo male comunque, non è che il fumo. Però stai descrivendo me, devo dire, che effettivamente fumo, però poi dopo uno, come stai dicendo tu, giustamente sta attento a delle cose minuscole e mentre ci pensa si fuma mezzo pacchetto di sigarette. Questo volevo dire, dico, facciamo, prediamo bene, razioniamo da schifo. Di conseguenza non ci preoccupiamo dell'uovo, della gallina bio, o tio, non so quello che sia. Però comunque pure delle piccole cose, perché chi parla poi fuma un pacchetto le sigarette è un'incongruenza, secondo il mio modesto parere. Questo vale pure perché non è mai la quantità di quello che fai, è sempre la qualità, la quantità. Se tu ti fumi una sigaretta non fai niente, un pacchetto fa male. Se te bevi un drink forse non fa niente, se te ne bevi 10 e cominci alle 10 di sera, come fanno la maggior parte purtroppo dei ragazzi, a lungo andare, anche a breve andare fa male. Parlando di droga, è vero che è la quantità, ovviamente, è anche la qualità. Discrimine. No, è vero, non era una battutaccia, però è semplicemente perché l'abbiamo visto che tante volte magari i ragazzi prendono delle pasticche che non sanno che cosa contengano e si fanno molto più male di quello che si farebbero, al di là che la droga fa male. Giustissimo. Io ho mio figlio, il maschio, che sta in polizia da 15 anni e sta a Roma centro, e dal giovedì alla domenica in questi quartieri della Movida, no? Che è Pescaccio, Campo di... prendono ragazzetti 14, 15, 16 anni ubriachi alle 4, 5 di mattina, ragazze. La mia domanda è, sì, vabbè, parliamo chi ragazzi, ma parliamo pure chi i genitori. Io dico, scusa, ma la ragazzina è 15 anni, 16 anni, ma dove va alle 3 di notte? La domanda che faccio al padre, io sono padre anche di una ragazza molto grande, ma se tu via torna alle 5, che sigarette alla macchinetta, dove va sta ragazza? Va bene alcol e droga? Va bene, non va bene, levamolo, ma sta ragazzi, ragazzini dovrebbero stare a casa a quell'ora. Ecco dove casca l'asino. Ormai è crollato tutto. Io allora, detto, Maurizio, dovresti dire a Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, la prossima campagna di farla per i genitori più che per i ragazzi. Cioè, scusa, ma perdonami, io cambio leggermente, poi quando finisce me lo dire, perché io sono un chiacchierone. Ma perché nei campi di calcio giovanile i peggiori sono i genitori dei figli? Confermo. Urlano come degli indemoniati. Vuole una squadra di orfani, vuole una squadra di bambini orfani. Almeno ci stanno i genitori che danno fastidio. C'è stato di recente. C'è stato di recente un allenatore che ha detto proprio questa cosa che hai detto tu. Se non ricordo male, forse Pulici, che si occupa del settore giovanile del Torino, ha detto proprio questo. Vorrei tutti una squadra di orfani. Cioè, naturalmente intendeva solo che i genitori stessero molto, molto alla larga. Ti vogliamo chiedere in cosa consiste poi questa campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio. Io amo la vita. La campagna è molto semplice: andiamo nelle scuole e cerchiamo, almeno io, poi il professor Maina lo dice in un modo tecnico, è neurochirurgo, che tutti chiaramente parlano delle cose che loro sanno e sono tante. Io cerco di capire i giovani con una frase che noi diciamo in un film di Pieraccioni: ricordatevi che non sarete mai più belli e più giovani di così. Siete giovani, siete belli, avete un miliardo di cose da fare, queste sono quelle non che non sputtanatele, diciamo, adesso lo dico non così. Buttatele non via, buttatele non ci siete mai così. I ragazzi sono belli, sono giovani, sono sorridenti. Io mi commuovo quando dico questa cosa perché li vedo, dico non serve, non voglio fare il vecchio e ci so. Tu dici nelle cose vecchie che vorrei che i ragazzini a una certa età stessero a casa, come era una volta. Ecco, questo forse vorrei. Dico stateci attento, siete intelligenti, più di me sicuramente. Sapete tutto, vi interessate di tutto, parlate le lingue, tutto quanto. Perché cascate in questa cosa terribile? Non porta niente di buono, niente di buono. E io questo gli dico, poi quando leggi i numeri di quello che succede devi avere le toppe da padre, ma pure non da padre, penso. Sì, ma in realtà è conoscere le conseguenze di quello che fanno, forse più che rimanere a casa, cioè forse più che essere nostalgici ai tempi in cui si rimaneva a casa di sera, insomma. No, io parlo perché certe volte i genitori, io vedo, ci riperdiamo un po' sti ragazzetti, ce li perdiamo perché un po' ribelli, un po' intelligenti, se li perdiamo, dico, un po' più d'attenzione pure dei genitori, se no è colpa sempre dell'altri nella vita. No, a Roma era colpa di Marino, a Roma era colpa, lì è colpa di questo, è sempre colpa di qualcun altro, sicuramente. Però bravo, bravissimo, è vero, questo è vero, cioè, questo io è vero. Sto facendo una campagna per Roma, vedete, mi ho scritto, vuoi Roma più pulita? Tienila pulita. Sei te il problema, sei tu il problema, puoi cambiare 2000 sindaci, ma se siamo un po' sozzetti, un po', un milione su 5 milioni sozzetti, sì. E quelli dell'AMA sono 7800, hanno 20 sozzi. Maurizio Battista, ministro della famiglia, ciao, a presto. Amore. Amore. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.

e altre, diciamo, lezioni che adesso non so più. Però non è che travestirsi da Zorro, diciamo, possa essere più educativo, nel senso, o travestirsi da Cappuccetto Rosso per andare nel bosco e farsi mangiare da un lupo. Quindi questa idea che se uno si traveste da donna allora è finito tutto e stiamo diventando tutti omosessuali è una follia alla quale tra l'altro i bambini manco ci pensano, proprio non ci pensano. Ero curioso sulla questione della teoria del gender, perché come sappiamo tutti la teoria del gender non esiste, tutti lo dicono, è semplicemente uno spauracchio che è stato messo, quindi volevo capire se anche lei arrivava al punto di dire è risaputo, nel senso che è una cosa che è stata inventata, tipo che dice la masturbazione dei bambini da 0 ai 4 anni, che è una fregnaccia che non si è mai vista, e non capisco perché mai qualcuno dovrebbe essere interessato ad insegnare questa cosa. Quindi è per questo che mi chiedevo se il nostro assessore alla Lombardia credesse che esiste la teoria del gender. Assolutamente sì, e questi argomenti tra l'altro verranno approfonditi in un convegno il 17 di ottobre, quindi sabato prossimo, in Regione Lombardia. Faremo tutto un pomeriggio con... Che è la replica, mi scusi, è la replica di quello di gennaio dove era presente il sacerdote accusato di pedofilia, giusto? Per ricordarlo. Il sacerdote sicuramente non è stato invitato da Regione Lombardia. No, era quello che era in prima fila. Era aperta a tutti e quindi con ingresso libero questi dobbiamo chiudere, però possono accadere. Certo, va bene. A seguito di quella manifestazione, di quel convegno, dove avremo esperti di demografia, di politiche sociali. Va bene, devo chiudere, assessore, mi scusi, devo chiudere. Però... Grazie per essere stata con noi. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Welcome to the future, vogliamo così celebrare anche noi, consacrare anche noi, commemorare la chiusura di Expo, e questo, diciamo, apertura verso il futuro. Maurizio Martina, ministro per le politiche agricole, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi di domenica mattina dopo, insomma, una giornata... dopo la sbornia di Expo. Eh sì, diciamo che... Bene, bene, per così anche per mettere un po' un punto su questa vicenda. Allora, non vogliamo essere cattivi stamattina, perché, ripeto, lo ringrazio onestamente di domenica mattina, dopo sei mesi di lavoro, dopo una giornata come quella di ieri, capi di Stato, saluti, ringraziamenti, eccetera, eccetera, non possiamo essere troppo cattivi. Però i biglietti venduti, Martina, 21 milioni, poco più di 21 e mezzo, ha detto Sala, l'obiettivo era 24. Io ricordo solo due dati, più di Hannover, 2000, 18 milioni, meno però del Giappone, 22 milioni, e di Shanghai nel 2010, 73 milioni. Ho dato i numeri, però insomma, come lo vive lei questo risultato? Beh, come un successo, senza dubbio, perché intanto il dossier su cui noi ci basavamo per raggiungere, diciamo, l'obiettivo numerico era quello dei 20 milioni, non dei 24 della primissima versione, poi fu corretto a 20 milioni. E okay. Poi al di là, diciamo, del numero in sé, ovviamente non paragonabile con Shanghai 2010, sono numeri e dimensioni e contesti completamente diversi. Il fatto che un Expo torni in Europa con questi numeri per me è assolutamente significativo, e siccome non era affatto scontato che arrivassimo a 21 milioni. Giusto, questo mi sembra giusto ricordarlo, perché fino a 5 mesi fa sembrava veramente impossibile, invece è raggiunto. Ma fino a pochi giorni prima che aprisse Expo, in molti dicevano che non sarebbe successo un disastro, che non avremmo fatto in tempo. C'è naturalmente anche questo, c'è anche il fatto che in questi anni Expo ha vissuto passaggi tormentati, inutile negarlo, ma io credo che oggi veramente si deve un po' riconoscere e celebrare la fatica di tantissimi che hanno lavorato con grande passione, grande tenacia a questo obiettivo, e è oggettivamente un obiettivo raggiunto. Posso essere ancora un pochino cattivello, poi basta, giuro. Allora, possiamo dire che Expo è anche questa fase che stiamo vivendo, Cantone, Sala, Tronca, adesso a Roma, è un po' per voi politici, siete stati un po' bacchettati, perché sembra, insomma, Sala non è un politico, Cantone è un ex magistrato, il ruolo dell'anticorruzione sul successo di Expo è stato riconosciuto da tutti, anche dal Presidente del Consiglio Renzi. C'è un po' questo? No, perché bisognerebbe chiedere e capire innanzitutto chi ha prodotto questi fatti. ANAC entra in partita su Expo esattamente 48 ore dopo alcune brutte vicende che avevano attraversato la questione della preparazione di Expo, ed entra in partita esattamente per scelta della politica, delle istituzioni, non per lo Spirito Santo. No, certo, non è un caso. No, voglio dire che c'è questa riflessione che fate bene voi, cioè di come alcuni profili tecnici di grande significato entrano in partita con piena responsabilità su alcune vicende delicate del paese. Però io penso che accanto a questo si debba anche riconoscere il ruolo della politica, la volontà e politica. Almeno quando c'è la buona politica, poi c'è anche la cattiva politica, per cui è giusto che si bacchetti quando non funziona. Senta, io non gliela vorrei neanche fare la domanda sulle carni rosse, anzi non gliela faccio proprio, perché ne abbiamo parlato tutta la settimana. Però, diciamo, allargando il campo, no? C'è un problema, perché se guardiamo le statistiche, nei paesi ricchi si consuma, negli ultimi decenni è aumentato molto il consumo di carne, sappiamo che ci vuole giudizio, è stato detto la dieta mediterranea, eccetera eccetera, però c'è un problema di modello di alimentazione, consumo, sviluppo sbagliato nei paesi ricchi, che va secondo cambiato. Me in alcuni paesi oggettivamente sì, lo dicono tutte le statistiche, in altri no. Se penso all'area mediterranea, in particolare alla nostra dieta mediterranea, la piramide alimentare che ci offre questa dieta è assolutamente decisiva ed è, come sapete, riconosciuta come la migliore al mondo. Ci sono anche quindi problemi, lei dove li vede? Nel continente americano, diciamo? Guardando i dati, nel Nord America, nel continente americano, in alcune parti dell'Asia che sta emergendo, lì ci sono degli squilibri dal lato proprio delle diete evidentissime. E dopodiché io difendo anche di fronte a questi dati dell'OMS, che in realtà poi appunto nelle ultime ore si sono persino riorientati sul piano comunicativo. Io credo che noi dobbiamo riconoscere che la grande questione è sempre l'equilibrio della dieta. Ma infatti io le volevo chiedere se la bresaola posso mangiarla, perché non riesco. Tranquillo. Posso? Va bene, no, sì. Perché di solito lo chiedo a mia mamma e so sempre il dubbio, sarà carne rossa, perché non è maiale. Ma lei, Martina, per esempio, ne mangia tanta di carne? Io ne mangio giusta, credo, perché tipo? La mangio due volte a settimana. Carne bianca, carne rossa? Sì, sì. Anche insaccati? Sì. Mortadella, cosa preferisci, la mortadella, il prosciutto? No, io sono per il prosciutto. Prosciutto. Io ne mangio molta di più, comunque. Ammetto. L'idea di diventare, sì, che ne so, vegetariano come fa Veronesi, l'hai mai sfiorato? Massimo rispetto, ma anche no. Anche no. Io sognerei di riuscire a diventare vegetariano, lo ammetto anch'io, però. Diciamo che è un percorso troppo difficile. Poi a un certo punto arriva del felino e io lì mi fermo. Non si riesce a resistere. Senta, Martina, l'ultima cosa, forse poi la lasciamo, perché ripeto, un ringraziamento, perché comunque il giorno dopo Expo averlo qua è un piacere e non era scontato. Su Marino, sulle dimissioni del sindaco, cioè, lei è un politico del Partito Democratico, io alla fine non ho capito, è caduto per gli scontrini, per le responsabilità nell'inchiesta Mafia Capitale, magari non sue perché non è coinvolto, ma del vostro partito, il PD, sì, o perché ha amministrato male Roma, come dice Renzi? Ma guardi, io non voglio fare, diciamo, dare giudizi semplificatori, però mi sembra che l'elemento principale di questa grande difficoltà sta davvero nel rapporto tra la vecchia amministrazione, lui e la città. È indubbio che lì è saltato qualcosa e mi pare evidente a tutti, al netto della polemica politica e delle discussioni interne, e da tempo era saltato parecchio, quindi mi sembra che il vulnus principale stia in questo. Quindi è colpa anche della città, non ho capito. No, dico esattamente il contrario, che nel momento in cui salta un rapporto tra amministrazione, sindaco e città nella ordinaria amministrazione, sì, lì c'è un elemento che non può essere banalizzato. Quindi è proprio una questione di rapporto e immagino anche di comunicazione, cioè di comprensione reciproca, cioè la giunta, il consiglio, Marino non riusciva ad avere un rapporto con la città, al di là dei meriti. Non mi avventuro in analisi troppo complesse, dico semplicemente che Roma aveva bisogno, dopo questa fase complicatissima, di uno scatto, di una reazione, di un punto di novità forte, e per diverse ragioni questo elemento non è arrivato. Non è un caso che, al netto, ripeto, delle discussioni interne, questa crisi oggettiva della capitale è evidente, per cui adesso dobbiamo tutti dare una mano perché si cambi completamente lo scenario e ci sia una reazione. Anche il Partito Democratico deve fare un po' di autocritica, soprattutto il PD. Penso che la scelta del prefetto Tronca sia una scelta perfetta da questo punto di vista, perché è un servitore dello Stato, è capace, l'abbiamo conosciuto qui a Milano e farà sicuramente bene a Roma per il Giubileo. E poi avanti. Adesso dobbiamo trovarne un altro per Milano, però. Esatto, anch'io mi chiedevo cosa succede, perché io sono di Milano. Noi qualche idea ce l'abbiamo. Va bene. Grazie, buona ministro. Domenica. Grazie mille, buona ministro. Giornata. Buon appetito. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo. Allora, sulle note di Tricarico, che salutiamo, un si può fare che ci è piaciuto moltissimo. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il preside dell'Istituto Pontormo di Empoli invia una circolare ai suoi studenti e dice: tornate a dire buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Tommaso Bertelli. Buongiorno. Allora diciamocelo, un bel buongiorno. Davvero sì, buongiorno. Eccolo qua. Senta, preside, insomma, ci è piaciuto molto questa cosa, perché un po' le buone maniere, un po' l'educazione, un po' il valore proprio anche della scuola, dove bisogna stare un po' anche in certe regole, diciamocelo. Come le è venuta in mente di scrivere questa circolare? Come mi è venuta in mente? Ho notato da un certo periodo a questa parte che i ragazzi non salutano più, ma non per cattiveria o per cattiva educazione. Io credo che sia il buongiorno, faccia parte di quelle cose banali, usuali, ma che non vengono mai dette. Vedo per esempio nella scuola elementare, nella scuola primaria, la maestra di solito c'ha un elenco di regole che condivide con i propri alunni. Sì. Ecco, tra queste regole non c'è mai scritto dire buongiorno, perché si dà per scontato. Infatti io ho molto apprezzato che lei dicesse: io non sono fra quelli che pensano che sia colpa dei telefonini o dei social network, penso soltanto che non salutino per distrazione, pigrizia o perché nessuno glielo ha mai fatto notare. Nessuno gliel'ha mai detto. Apprezzato moltissimo. Esatto, infatti è proprio questo, cioè se diamo talmente per scontato il fatto che uno dica buongiorno, che praticamente nessuno ha pensato a ricordarglielo, solo questo. Posso fare un esempio stupido? Io a mia figlia, Alba, mia moglie, ma anche tutti quelli che li stanno, diciamo a 4 anni, Viola, di grazie, ringrazia quando ti fanno una cortesia, perché se non glielo insegni, non è che uno ce l'ha scritto nel DNA. E con i ragazzi delle scuole forse è un po' la stessa cosa. Sì, sicuramente, perché bisognerebbe che già la famiglia fosse abituata a dire buongiorno la mattina, però purtroppo evidentemente non è così. Non è stato un richiamo, il mio fra l'altro è stato un richiamo dal tono molto paterno, infatti termino ringraziando tutti coloro, certo, che vorranno aderire a questa mia richiesta. Anche perché se uno non dice buongiorno al mattino possono succedere poi cose terribili, cosa può succedere? Come può andare la giornata? Può finire malissimo. Diciamo che dire buongiorno per conto mio è un modo piacevole per iniziare la giornata, specialmente quando incontriamo una persona, perché credo che dire buongiorno, oltre ad augurarti appunto una bella giornata, sia anche un modo per far capire a quella persona che abbiamo piacere ad incontrarla. Per esempio, i ragazzi oggi molto più frettolosamente salutano con un ciao, ma un ciao è dedicato a due persone che si incontrano fugacemente, non prevede un prosieguo delle parole, mentre il buongiorno, se lei ci pensa un attimo, viene naturale, dice buongiorno, come stai? Buongiorno. E inizia una discussione, inizia una relazione, come è quella, esatto, tra studenti e insegnanti. Preside, noi la ringraziamo e buongiorno naturalmente. Le auguriamo un'ottima giornata. Certo, in fondo al mare. Sempre più sdraiati ormai sul piano inclinato della nostalgia, anche per introdurre la prossima notizia. La città di Massarosa in Toscana diventa un po' la capitale di una nuova tendenza che è il baratto amministrativo. Se hai un debito col comune lo puoi pagare col lavoro, se non sei in grado di pagarlo in moneta. E allora diamo il buongiorno al sindaco di Massarosa, Franco Mungai. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Sindaco, allora poi ci dirà anche lei a cosa vorrebbe tornare dopo che Salvini, siamo partiti così stamattina al momento nostalgia, Salvini ha chiesto, vorrebbe tornare alla leva obbligatoria. Lei ce l'ha una cosa a cui vorrebbe tornare anche lei? No, veramente non mi sono posto quel tipo di problemi. Io mi immagino che ci sia anche questa esigenza, ma io tendo ad amministrare nel migliore dei modi la mia comunità, cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini. E tornare indietro, non lo so, forse che la gente pagasse con più puntualità le tasse, questo sì. Eccolo qua, e voi una risposta l'avete data, in realtà non voi, ma insomma è una norma che viene dallo Sblocca Italia, che cos'è? Esatto, viene dall'articolo 24 del decreto Sblocca Italia, peraltro era un progetto che avevamo già pensato ai tavoli di sviluppo, nel tavolo qualità del vivere nel 2012, quindi addirittura anche prima che ci fosse questa opportunità. Poi col decreto Sblocca Italia questo è stato possibile concretizzarlo. Praticamente abbiamo fatto un discorso molto semplice con i nostri cittadini. Cittadini, siete in difficoltà a pagare le tasse, avete tempo da impegnare per venire incontro a quelle che sono esigenze della collettività, vi diamo la possibilità di farlo, vi scontiamo il 50% della TARI, la tassa sui rifiuti. Quindi in cambio dell'esecuzione diretta di opere che riguardano la manutenzione del territorio, e principalmente gliele posso elencare sinteticamente, sono la pulizia e la manutenzione delle strade, dei parchi pubblici, delle sedi scolastiche, la preapertura delle scuole, l'esecuzione di manutenzioni all'interno degli edifici comunali, quali manutenzioni elettriche, idrauliche, di imbiancatura, di muratore. Noi diamo la possibilità ai cittadini che hanno aderito e alle associazioni

Presidente del Consiglio abbia detto che si debbano integrare le banche dati per riuscire a prevedere, prevenire la criminalità, per fare qualcosa, perché lo stiamo facendo a Trento. Io sono un criminologo all'Università di Trento, ma lavorando con la Fondazione Bruno Kessler, la Questura di Trento e il Comune, e abbiamo integrato dati non solo di polizia per cercare di offrire ad un questore, quindi alle forze di polizia, e ad un sindaco, ad un ente locale, conoscenze avanzate per la prevenzione della criminalità e anche per capire dove si concentrano in una città i rischi di criminalità. Di che tipo di dati stiamo parlando? Possiamo fare qualche esempio? Sì, innanzitutto dati di polizia, si dice in gergo georiferiti, cioè collocati geograficamente nello spazio e nel tempo, quindi dove sono avvenuti i reati, sono una prima informazione. Ma poi abbiamo coinvolto i cittadini nel nostro caso del Comune di Trento. Ogni sei mesi abbiamo chiesto sia informazioni sui reati che non avevano denunciato, perché capita, sia sulle loro sensazioni di paura, sempre collocate nello spazio e nel tempo. Poi abbiamo costruito un software per andare a vedere il disordine, quindi una specie di applicazione che attraverso l'azione dei poliziotti monitora il disordine sempre nello spazio. Il disordine in che senso, scusa? Disordine urbano, disordine sociale, immaginatevi un cassonetto ribaltato. Anche piccole cose così, tutto quello che in qualche modo diciamo va contro l'ordine naturale, cioè non naturale, l'ordine giusto, corretto delle cose, contro l'ordine corretto, che ci dà fastidio perché comunque fa parte della sicurezza urbana e spesso è anche predittore di luoghi in cui avvengono reati. E poi in una smart city, una città intelligente, raccoglie dati, tantissime informazioni, il traffico, il meteo, i movimenti delle persone. Ecco, tutte queste informazioni ci dicono qualcosa anche sulla criminalità, perché sono opportunità per i criminali. Quindi immaginatevi la fusione di tutti questi dati, di tutte queste banche dati, e degli algoritmi che riescono a dire qualcosa su dove avverrà il crimine. Di Nicola, è un po' qualche cosa, cioè è simile a quello che fanno gli stessi diciamo rapinatori, gli stessi criminali che studiano il terreno e dicono ok, andiamo di là perché è più buio, andiamo di là perché è una zona più facilmente aggredibile. Cioè voi fate la stessa cosa visto dal lato dei buoni. Sono reati, chiunque commette criminalità di quel tipo non vuole andare in galera, quindi un minimo ragiona, e ragiona in base alla componente esterna dello spazio, geografica, insomma quelle che sono le sollecitazioni ambientali. E noi siamo dall'altra parte, usiamo quelle stesse informazioni per cercare di capire che cosa succede, e in più per dare ad un sindaco, come si diceva all'inizio, la comprensione di quello che i propri cittadini pensano, e anche la capacità di comprendere se le azioni che sta mettendo in atto nell'ente locale possano essere utili e efficaci. E poi c'è da dire, è un sistema per efficientare, rendere più efficiente l'azione delle forze di polizia, risorse scarse, è meglio collocare i patrugliamenti. Ma scusa, forse è una domanda stupida, quello che mi chiedo è qual è il risultato, nel senso che tutto questo diventa una ricerca e quindi alla fine c'è un lungo testo, un risultato dicendo quelle sono le zone più pericolose, questo è l'orario più pericoloso, oppure viene fuori proprio scritto alle 17:21 ci sarà una rapina in corso Francia 7? Per ora noi abbiamo fatto questi 3 anni di test nel comune, ora si sta lavorando per rendere operativa questa ricerca, una ricerca applicata, quindi con la voglia di diventare concreta e con la speranza che si possa applicare anche in altri contesti, non solo in quello trentino, dove, devo essere sincero, non c'è molta criminalità e non c'è molta. Ma non lamentatevi però, di Nicola. Ah, giustamente tu sei un criminologo, cioè sei un criminologo a Trento, quindi depresso perché dici qua non succede mai niente. Un sistema di questo tipo funziona ancora meglio nelle grandi città, questo volevo dire. Certo. Quindi, dove c'è molta popolazione, dove ci sono molti fatti, dove poi è logico che l'obiettivo è tenere ancora più bassi i tassi di delinquenza. Ah no, però questo è interessante, perché io pensavo invece l'inverso, pensavo che fosse più semplice in un centro piccolo monitorare e avere appunto anche che avesse un valore la segnalazione di un cassonetto ribaltato. Comunque, per rispondere alla domanda di prima, è un sistema operativo a disposizione, abbiamo usato risorse pubbliche dell'Unione Europea fino adesso, e quindi c'è un sistema prototipo che può essere poi andato ad innestare in altre città, e spero, ma è una speranza concreta, che presto riusciremo a trasformarlo in qualcosa di operativo. Qual è il tuo sogno, Andrea Di Nicola, il coordinatore di questa ricerca? Cioè, se potessi spingere al massimo i risultati di questa cosa, cosa ti aspetteresti? Quale strumento potente vorresti dare nelle mani delle forze dell'ordine? Beh, questo migliorato è uno strumento, è già funziona, riusciamo a prevedere il 70% dei reati da una settimana all'altra, reati come furti in appartamento, per capirsi. Beh, questa è una notizia pazzesca, l'hai tenuta in fondo apposta? No, ma è anche la verità, proprio perché ci sono delle regole dietro questi comportamenti. Quello che mi aspetto e che spero insomma si stia concretizzando è che i dati in tempo reale siano innestati in questo sistema, vuol dire dati da parte della città, ma vuol dire dati anche dalle forze di polizia, quindi dati del Ministero dell'Interno, quindi che quelle banche, il nostro Presidente del Consiglio parlava di integrazione, c'è anche bisogno di integrazione tra istituzioni e che la ricerca non sia staccata dalla pratica, questo è il nostro obiettivo che portiamo avanti a D-Crime nell'Università di Trento. Cioè abbiamo tanti dati che ogni, ma la prefettura, la questura, il ministero, ognuno gestisce un po' dei dati suoi, riuscire a metterli tutti insieme e con questo software che state immaginando voi, con questi criteri, diventerebbe uno strumento, è già uno strumento potenzialmente nelle mani delle forse dell'ordine. Immaginatevi quattro anni fino ad oggi di dati su cui noi possiamo fare costruire algoritmi, analisi dei rischi. Immaginatevi quello che noi stimiamo settimana per settimana e quello che è avvenuto realmente. Ecco, se nella settimana 0 noi diciamo che nella settimana 0 più 1 i reati avvengono in questa circoscrizione o avverranno e si concentreranno lì, nel 60% dei casi questo sistema ci prende. Si dirà al questore la settimana prossima, o migliorando ancora di più questo sistema domani, dovrai pattugliare con più efficacia questa zona per un certo numero di ore, perché così ridurrai questo quartiere. È un bel vantaggio, è un bel vantaggio, perché le pattuglie non sono infinite, quindi poterle dislocare nei luoghi giusti. Strepitoso, grazie Andrea Di Nicola, criminologo. Grazie mille. Ed è tutto per questa puntata del Meglio di Si Può Fare. Vi ricordo i nostri contatti, se volete interagire con noi, la pagina Facebook Si Può Fare trattino Radio 24, l'account di Twitter @SiPuoFare24. Ciao a tutti, buon sabato da Alessio Maurizio.